16 anni, ma è già da più di 10 che vivo in un carcere. Nessun reato commesso là fuori. Fui condannato ben prima di nascere. Costretto a rimanere seduto per ore, immobile e muto per ore. Io, che ero argento vivo, signore, che ero argento vivo, e qui dentro si muore. Questa prigione corregge e prepara una vita che non esiste più da almeno 20 anni. A volte penso di farla finita e a volte penso che dovrei vendicarmi. Però la sera mi rimandano a casa, lo sai, perché io possa ricongiungermi a tutti i miei cari. Come se casa non fosse una gabbia, anche lei e la famiglia non fossero i domiciliari. Ho 16 anni, ma è già da più di 10 che vivo in un carcere. Nessun reato commesso là fuori. Fu condannato ben prima di nascere. Di lato ma non lo guardo nemmeno, e mi mantengo sedato per non sentire nessuno. Tengo la musica al massimo e volo, che con la musica al massimo rimango solo. E mi ripetono sempre che devo darmi da fare, perché alla fine si esce e non saprei dove andare. Ma non capiscono un cazzo, no, io non mi ci riconosco e non li voglio imitare. Avete preso un bambino che non stava mai fermo, l'avete messo da solo davanti a uno schermo. E adesso vi domandate se sia normale, se il solo mondo che apprezzo è un mondo virtuale. Io che ero argento vivo, dottore, io così agitato, così sbagliato, con così poca attenzione. Ma mi avete curato e adesso mi resta solo il rancore. Ho 16 anni, ma è già da più di 10 che ho smesso di credere che ci sia ancora qualcosa là fuori, e voi lasciatemi perdere. Girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che è specchio di quest'inferno. Dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi. Sono fiori a scarabocchi in un quaderno, uno zaino come palla al piede, un'aula come cella. Suonerà come un richiamo paterno, il mio nome dentro l'appello, e come una voce materna la campanella. Suonerà, è un mondo nato dall'arte, per questo artificiale. In fondo un mondo virtuoso, forse per questo virtuale. Non è una specie a renderlo speciale, dicono che tanto è un movimento chimico, un fatto mentale. Io che non mentivo, che ringraziavo ad ogni mio respiro, ad ogni piglio, ad ogni brivido della natura. Io che ero argento vivo in questo mondo vampiro, mercurio liquido se leggi la nomenclatura. Ho 16 anni ma già da più di 10 vivo in un carcere, c'è un equivoco nella struttura e fingono ci sia una cura, un farmaco, ma su misura. E parlano, parlano, parlano, parlano. Mentre mio padre mi spiega perché è importante studiare, mentre mia madre annega nelle sue stesse parole. Tengo la musica al massimo ancora, ma non capiscono un cazzo, no. E allora ti dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto. Come un bambino distratto davvero è normale che sia più facile spegnere che cercare un contatto. Io che ero argento vivo, signore, io così agitato, così sbagliato, da continuare a pagare in un modo esemplare qualcosa che non ricordo di avere mai fatto. Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.